Se, come si fa fra, come si fa fra entrare dentro questa scena, scena F.I. fra. Come si fa fra, come si fa fra entrare dentro questa scena, scena F.I. fra. Come si fa fra, come si fa fra entrare dentro questa scena, scena F.I. fra. Primo passo, foglie e bic in mano e colorarti rime fra il foglio Fabriano. Scrivere finché non ti consumi anche la mano. Migliorare il flow, la metrica, andare a tempo. Poi resto fra, lo fa il talento. Io apprendista artista, per questo non mi trovi in lista. E se bussi non ti danno la risposta, devi intrufolarti come la posta. E rime senza sosta, entrare fra e costa. Dove la scena è minima, controlla la tua lirica e ricarica. Dalla provincia fino alla città, questo è l'emmi suono, questo è l'emmi rap. Questo è quel che sono, questo è l'emmi set. Del mio cortometraggio, la mattina a scuola in San Frediano. Poi se possibile, giù a Rovezzano. Se no a lavorare fra San Colombano. Come si fa fra, come si fa fra entrare dentro questa scena, scena F.I. fra. Come si fa fra, come si fa fra entrare dentro questa scena, scena F.I. fra. Come si fa fra, come si fa fra entrare dentro questa scena, scena F.I. fra. Non è la città dei ghetti, ma i quartieri qua non è che sono proprio perfetti. Conflitto di interessi, fa male fiorentini stessi. E vai in city e li vedi un po' depressi. E nell'Interland resta il mio clan. E la sera con gli amici a girare per la city, espongano graffiti e nelle gem pompano bifiti. In una città che tenta dentro il cuore, se la vivi un po' l'arcore, una storia d'odio amore. E per farti sentire qua devi far rumore, se no sei sottofondo, in fondo alla piramide. Non muori dai rofra come Paride. E nell'estate aride, in mezzo alle colline, c'è la fa di sopprime, le classi di primine che fumano le cime la domenica al cine. Fra con la pischella e pensi se la città che ti porta iella, se non t'andava bene nemmeno con quella. Come si fa fra, come si fa fra entrare dentro questa scena, scena F.I. fra. Come si fa fra, come si fa fra entrare dentro questa scena, scena F.I. fra. Come si fa fra, come si fa fra entrare dentro questa scena, scena F.I. fra. E se poi te ne andrai, sai che poi ritornerai. Perché a sta città tu ci sei attaccato come con l'attacco. E se poi ritornerai, sai che poi non te ne andrai. Perché a sta città tu ci sei attaccato come con l'attacco. Come si fa fra, come si fa fra entrare dentro questa scena, scena F.I. fra. Come si fa fra, come si fa fra entrare dentro questa scena, scena F.I. fra. Come si fa fra, come si fa fra entrare dentro questa scena, scena F.I. fra. Come si fa fra, come si fa fra entrare dentro questa scena, scena F.I. fra. Come si fa fra, come si fa fra entrare dentro questa scena, scena F.I. fra. Come si fa fra, come si fa fra entrare dentro questa scena, scena F.I. fra.